io devo chiamare la polizia. La polizia? Sì, dobbiamo chiamare la polizia, Jordi. Stanno tirando pietre contro la piscina. No, no, non le lanciano contro la piscina, le lanciano contro di me. Così, la cosa più giusta da fare adesso è chiamare la polizia. Vabbè. Aspetta, aspetta. Che c'è? Una cosa soltanto. Un'ultima cosa. Ma tu pensi veramente che io sia... Ettore. Ma tu pensi che io sia capace di... Non so. Perché se adesso arriva la polizia... Vi fidate di me? Anna? Ettore! Mi credete... O no? Anna! Ho paura! L'abbiamo tutti. Siamo tutti spaventati. Siamo tutti spaventati.